e gira tutto intorno a me, quando ci sei tu per me, e batti il cuore perché, perché tu mi colori la vita con un raggio di sole, gira tutto intorno a me, quando ci sei tu per me.